Gedalia Tarzartes, o Tarzartem per meglio dirla, insomma, ma forse si potrebbe anche pronunciare veramente come un po' si vuole, visto una produzione assolutamente eccezionale di questo autore semi sconosciuto, un culto che la Vinyl On Demand ad esempio ha voluto inserire tra i vari cofanetti che cura, e giustamente, perché insomma è veramente uno dei più più nomadi nel vero senso della parola, in termini anche musicali, degli autori contemporanei, Tazarté. Avete sentito come è tanto elettronica e quanto strumentazione classica, quanto gioco, il finale con questo bambino, questo adulto che si diverte insomma a richiamare questa cantilena assurda, questo appunto senso del gioco, poi, che non è solo appunto un scherzo, ma è gioco nel vero senso della parola, cioè una creazione attraverso un senso anche non tarato di questa, quindi con elementi che si vanno a mischiare, miscelare in una maniera assolutamente incredibile. D'altronde poi stasera stiamo trattando le strane alchimie, abbiamo iniziato così, rispondo anche al simpatico ascoltatore insomma che ci chiedeva chi fosse insomma l'autore iniziale, Keiji Aino, Anima Mima, quindi insomma se cercate l'autore come Keiji Aino, ripeto, è Anima Mima, insomma con sto nome tra l'altro trovate soltanto mi sa lui, a meno che non sbagliate, scriviate Anima Mia, poi invece vi ritrovate in tutt'altra faccenda. E poi dopo abbiamo ascoltato Maya Ratke e Jap Blanc, per arrivare appunto a Gedalia Tazartes, che abbiamo ancora in sottofondo, una strana Francia, una Francia che ricorda più magari i trovatori occitani che appunto girovagavano cantando storie. Queste sono storie, narrazioni musicali, sonore, incredibili. E sodale, non uso insomma a caso questo termine, visto che tante volte fanno anche quasi paura, quasi sembrano dei sorte di umanisti, sì, ma criminali nel senso del trattamento assolutamente fuori norma, in questo senso fuori legge, della composizione, sia Gedalia Tazarté che appunto Jacques Berrocal, anche egli appunto francese, e anche incontrato in uno splendido disco tra l'altro proprio insieme qualche anno fa. Andiamo a trovare Berrocal con un disco spettacolare del 1973, Musique, che gioca con una materia collagistica che comunque non va mai a staccare poi da un senso globale e generale del flusso, che è assolutamente straordinario per ipnotismo sonore, per questo senso della scoperta, anche qua il gioco che riprende tanto del Dada, ma anche proprio di un'improvvisazione totale, di una forma assolutamente libera, free form appunto della materia sonora, e di questo modo così stranamente alchemico di trattarla. Berrocal quindi, da questo storico disco che tra l'altro influenzerà in maniera molto importante, fondamentale, potremmo dire, e Nas Witwoud, da sempre insomma amanti di Berrocal, o da sempre, anzi per meglio parlare di Steve Stapleton, visto che poi è lui il nome tutelare del progetto incredibile Nas Witwoud, che collaborerà anche nei primi dischi con Berrocal, cercando appunto quel collagismo che non è mai appunto perdita del senso globale della composizione, seppur assolutamente dada surreale, assurdista nel suo farsi e disfarsi. Berrocal quindi dal suo storico primo disco. Jacques Berrocal dal suo Musique 1973 per questo disco di culto, non lo dico tanto per dire, ma perché di fatto forse anche per l'operazione insomma di Stapleton e quindi di farlo diventare un autore di riferimento e anche insomma poi l'interessamento per le varie ristampe anche appunto di questo primo disco del francese errante musicalmente perlomeno. E se abbiamo trattato così Giappone, Nord Europa e Francia, ci portiamo dentro un laboratorio di quelli altrettanto assurdi e folli ma americani, andiamo a San Diego, un sperimentatore vicino al noise, inizia con il progetto Non con Boyd Rice, quindi chi conosce vagamente Non e il brutismo musicale appunto del progetto sa a che cosa va incontro, ma poi verrà anche disdetto dall'ascolto di Robert Thurman che da quando, dalla fine degli anni 70, iniziò appunto con Non, ha fatto veramente uscire pochi lavori, poi splendidamente scoperto da un altro grande alchimista musicale ma assolutamente odierno come Aaron Dilloway, ex Wolf Eyes, quindi uno che ne sa di rumore anche tanto, e ha praticamente trovato insomma una seconda se non terza giovinezza, tant'è che insomma ha riniziato a stampare anche cose piuttosto importanti in termini musicali, anche proprio in termini quantitativi. Robert Thurman, che se ne usciva con dopo l'esperienza con Non nel 1981 con questo Flux, disco incredibile, dove appunto l'idea di flusso è veramente trattata in maniera assolutamente originale, c'è un lo-fi che va a inventare una sorta di no ambient, di suono atmosferico assurdo che tanto appunto influenzerà soprattutto il lavoro solistico di Aaron Dilloway, che non a caso insomma con il suo Blizzard richiamerà proprio Thurman per appunto ricreare quelle atmosfere seriamente alchemiche, seriamente assurde nel loro miscelarsi. Robert Thurman quindi dal suo gioiello, ma stasera insomma mi sto ripetendo per tutti i lavori che stiamo inserendo qua dentro 451 frammenti sonori, ovvero Flux. Thank you. E dopo Robert Thurman abbiamo ascoltato senza soluzione di continuità Yoshi Mashida con un pezzo veramente eccezionale tratto dal suo primo disco, tra l'altro Hypernatural, proprio in questi giorni è possibile insomma che in qualche 451 frammenti sonori ascolterete anche il nuovo lavoro appunto del giapponese che è Music from the Sinti, e qua c'è una continuità eccezionale anche per quello, forse insomma l'ascolto continuato delle varie opere di Mashida ci porta a capire un personaggio che lavora soprattutto su la luce come artista visivo, gli echi come sonorità e appunto queste possibilità date dalla luce e dall'eco, forse elementi basici sia del visivo, la luce, se pensiamo insomma ai momenti insomma eccezionali della pittura, momenti dati appunto dalla grande rivoluzione dell'utilizzo della luce in maniera insomma anche violenta, pensiamo insomma sì, scomodiamolo insomma il grande Caravaggio, ma pensiamo anche al cinema e a come la luce venga utilizzata, ad esempio insomma un film eccezionale come THX di George Lucas, ma potremmo anche citare, che ne so, i primi 20 minuti incredibili di Spielberg, di Incontri ravvicinati, dove appunto la luce a livello visivo fa tutto, poi di fatto e crea una metalingua, cioè nel senso che è un linguaggio esportabile anche all'esterno, extraterrestre addirittura, perché insomma si può comunicare o tentare insomma di comunicare tramite non chiaramente il linguaggio codificato delle lingue, ma attraverso la luce sì, e anche l'eco, il suono dell'eco, uno dei momenti primordiali dell'ascolto, appunto quello legato a, e qua potremmo citare The Cave of Forgotten Dream del grande Werner Herzog, dove l'eco appunto della caverna di Chateau e Chavaux creava appunto sonorità poi viste di fatto insomma portate a livello visivo attraverso questi dipinti rupestri incredibili, quindi con due modalità piuttosto basiche fondamentali insomma dell'ascoltare, del vedere, no? La luce appunto e l'eco, no? L'eco anche che appunto sia quasi come conoscenza, come poi forma prenatale, no? di apprendimento, no? Primo. E se con Yoshi Mashida si va appunto a un suono e una visione basilare, una miscelazione sul serio primordiale, elementare si potrebbe dire, con Norman Westberg, che è un altro dei grandi alchimisti di questi insomma ultimi decenni, non a suo nome, se lo trovate il suo nome lo trovate dentro i credit degli album, perché ha fatto cose molto importanti con Fetus, quindi portando a un suono esacerbato il rock industriale appunto di Fetus, e poi con Swans portando un'elevazione noise espressionista veramente notevole, appunto la progettualità di Swans tuttora è ancora attivo con Michael Gira in Company appunto dentro il progetto, ma ha fatto uscire finalmente dopo tra l'altro molti anni insomma di carriera musicale un disco in proprio, e anche qua come Yoshi Mashida si va su un'alimentarità che va quasi proprio all'essenza a cercare un fondamento del suono, non qua il visivo ma il sonoro, e nel pezzo che andiamo a ascoltare che chiude queste strane alchimie di 451 frammenti sonori Norman Westberg trova cercando appunto con elementi assolutamente basici un delay portato anche a un suono basilare sporco, e come lo possiamo sentire da due amplificatori, quelli che usa poi lui come missione, vecchi amplificatori che quindi danno quel senso insomma di concretezza poi sonora, quel quasi pulsare, no, dei vecchi insomma delle vecchie strumentazioni analogiche, in questo caso due amplificatori, e poi il banjo che chiaramente riporta insomma la musica folclorica americana, un'alchimia incredibile appunto tra echi chitarristici di lei trattati con una grande anche naturalezza del suono dell'ampli analogico, e appunto il banjo che ci riporta veramente a un momento naturale anche in termini strumentali, quindi in termini folclorici di tradizione sonora e musicale. Chiudiamo appunto con Norman Westberg dal suo Plough, disco non facile a trovare, comunque insomma girchiate, è un CDR che potete prendere più o meno da lui, oppure cercarlo sulla rete, comunque insomma se vi date insomma un po', come dire, da fare attraverso la maglia della rete, riuscirete a trovarlo. Disco che anche questo insomma da ascoltare tutto d'un fiato, sono 70 minuti di drone allucinante, di alchimia appunto tra suono lancinante, chitarristico, dronato e appunto questo senso brumoso e naturale e naturalistico, anche se ha un senso insomma ancora parlare in questo caso del tecnologico, perché comunque per quanto basico è utilizzato da Norman Westberg, come d'altronde dagli autori che abbiamo trattato questa sera, che è Geino, Maya Ratke, Jap Blanc, Gedalia Tazardes, Jacques Berrocal, Robert Thurman, Yoshi Mashida, e appunto per finire con i miei saluti di Max Mack, Norman Westberg. Alla prossima.